456. Cacciucco Maniera Seconda. Questo cacciucco imparato a Viareggio è assai meno gustoso dell'antecedente, ma più leggero e più digeribile. Per la stessa quantità di pesce, pestate in un mortaio 3 grossi spicchi d'aglio e dello zenzero fresco, oppure secco per ridurlo in polvere. Per zenzero colà si intende e il peperone rosso piccante, quindi va escluso il pepe. Mettete questo composto al fuoco in un tegame o pentola di terra con olio in proporzione e quando avrà soffritto versateci un bicchiere di liquido composto di un terzo di vino bianco asciutto oppure rosso e il resto acqua. Collocateci il pesce, salatelo e poco dopo sugo di pomodoro o conserva sciolta in un gocciolo d'acqua. Fate bollire a fuoco ardente, tenendo sempre il vaso coperto. Non toccate mai il pesce per non romperlo e lo troverete cotto in pochi minuti. Servitelo come il precedente, con fette di pane a parte che asciugherete prima al fuoco senza arrostirle. Se il pesce prima di cuocerlo resta crudo per diverse ore, si conserva meglio salandolo, ma allora è bene di lavarlo avanti di metterlo al fuoco.